L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern? Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo, sarò malato, però io ho passato tutto il giorno, anzi da ieri sera, che penso solo a Paolone. Non so perché, lo so, mi dirai che sono malato, eccetera. Paolo, beh, insomma, sei un sì, po'. Sì, è vero, però è tutto il giorno. Se fosse almeno una bella donna, ma no, invece è Paolone. Paolone Bocelli, che ieri ci ha raccontato, non lo possiamo mandare in onda una volta, magari fra qualche mese lo faremo, non lo so. Però non lo possiamo mandare in onda alle 18.30, sennò no. Sembra brutto, no? Sembra un po' brutto. Più avanti manderemo di nuovo il racconto di Paolone Bocelli, che è uno dell'anti-racket. Ecco, appunto, che ha una vita anche specchiata in genere. Sì, vabbè, specchiata, non è che quello che ha detto significa. Ho capito, non è che quello che ha detto significa che adesso è una persona per male. No, ma non gli si addice questo racconto. Allora, io sono rimasto colpito tutto il giorno da Paolone Bocelli, che ci ha raccontato perché lo chiamano Paolone, lo potete facilmente intuire, però più avanti, siccome resterete incollati alla zanzara, più avanti vi spiegheremo, torneremo a spiegarvi il perché. Perché viene chiamato Paolone Bocelli. Paolone Bocelli è uno che si batte per la Grazia Corona, va in televisione, anti-racket, impegno. Però ieri ci ha raccontato un aspetto della sua vita privata spaventoso, se vogliamo. Spaventoso, come le sue dimensioni, diciamo, per no? Lui. Paolone Bene Bocelli. Per lui, diciamo. Però torniamo a cose più serie. Siccome ci dicono dobbiamo essere più seri, no? Dobbiamo essere un po' più istituzionali. Dobbiamo parlare delle cose che succedono e non di Paolone Bocelli. Io vorrei parlare sempre di Paolone Bocelli, però facciamo finta che non sia passato per la zanzara. Ed ecco Landini, il nuovo leader della sinistra, diciamo la verità. I tre leader, quelli che oggi sono i più gettonati, quali sono? Renzi, Landini e Salvini. Sono tre, no? Gli altri esatto, più o meno sono esatto. Delle comparse. Signor Landini, che dice che le persone oneste non sono con Renzi. Beh, poi ha chiesto scusa, ora, sì, ho capito, però avrà chiesto pure scusa. Però uno che dice le persone oneste non sono con Renzi, amico mio. Lui beh, fallo sentire, perché lui in verità poi lì ha detto sul sindacato che nella FIOM non c'è sì. Mai stato nessuno di inquisito, questo ma era il senso. Non vuol dire niente, nessuno di inquisito per bene nella FIOM. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Tutta per bene. Ma non vuol dire nulla. Per bene. Non vuol dire niente, lo sai mai anche tu. Mai neanche un indagato o un inquisito. Ma che FIOM. Vuol dire? Ma perché non vai in giro con la felpa FIOM? Beh, sai che volevo comprarla per solpere. Vai in giro con la felpa, guarda che ti no, si addice, ti si addice. No, ma sarebbe un controsenso e magari verrebbe vai presa male, perché non sono FIOM. Un operaio metalmeccanico, quindi non vorrei venisse presa male. No, ma che c'entra? La mettono anche quelli che non sono operai per solidarietà. Comunque, sentiamo il signor Landini. La comprerò. Il signor Landini. Soprattutto deve rendersi conto che oggi lui il consenso di chi lavora, dei giovani che stanno cercando lavoro e delle persone oneste in questo paese lui non ce l'ha, e allora deve decidere da che parte stare. Mamma mia, che scivolata, amico mio! Non hai il consenso. A parte che non lo decide Landini che se Renzi ha il consenso, l'ultimo test aveva il consenso di quasi metà degli italiani che sono andati a votare. Per cui non è che decide Landini chi ha il consenso, se Renzi ha o no il consenso. Questa è una solenne stronzata, lo vogliamo dire o no? Perché qualcuno non ha il coraggio di dirlo fino in fondo e tende a lisciare il pelo ai sindacati, a quelli che protestano, dicendo che sono in difficoltà. No, ai sindacati in generale. No, ma a quelli che protestano in generale. Sindacato. No, ma quelli che protestano in generale. Comunque, Landini dice anche che il governo ha rifiutato qualsiasi confronto. Ora io dico, in Italia è un principio generale, lasciamo perdere adesso le singole dispute sul Job Act e queste robe qui. In Italia di confronti ce ne sono tutti i giorni. Landini è tutti i giorni in televisione. Beh, parla del merito, di quello che vuole fare. È il sindacalista che chiude più contratti. Sì, in Italia, ma ho capito, Landini, ma non è che vero chiude che chiude più accordi. Sì, scusami, d'accordo, non ma non accordi, c'è più, ma non me ne frega niente. Il punto poi, appunto, guadagna in Italia, 2.200 euro al mese. Landini. Oddio, ma non sto dicendo nulla contro insomma, Landini. Dice sai, che ci sono. Questo. Dice che rifiuta qualsiasi cosa. In Italia ci sono troppi confronti, troppe chiacchiere. Ma il suo lavoro chiedere il confronto, scusami. È il suo lavoro, Landini. Cioè lui fa il suo lavoro. Landini. Il governo ha rifiutato qualsiasi confronto con i sindacati, quindi non è stato possibile confrontarsi e ricercare un'intesa. Comunque ragazzi, non c'è niente da fare. In Italia chi decide solamente ascoltando e non concertando, non mettendosi d'accordo sul nulla, viene bastonato. E lo stesso sta succedendo a Renzi, al di là del merito delle decisioni di Renzi. Beh, anche a Landini però. Senti questo zingaro, eh? Io di lavoro faccio il ladro. Ah, ieri ad anno uno. Sì. Io di lavoro faccio il ladro. Stupendo, senti. Che lavoro fa? Ladro! Anche io rubo! Dove andate a rubare però? Dove? Se vai vicino puzza, se vai fuori stai bene. Quindi fuori città? Fuori città. Ah, ho capito. Basta. Mica ruberà dai poveri. Ma per favore, lascia perdere. Ruba dai ricchi. Io di lavoro faccio il ladro. Eh sì. Senti quest'altro, credo che sia lo stesso, Perché cazzo dicono che siamo zingari, che noi andiamo a rubare? Perché noi quando andiamo in paese, portiamo i bambini nostri in scuola, ci dicono guarda i zingari, cosa va? Questo non va bene. Se noi cominciamo, noi zingari, a fare un casino, noi famo la guerra, terza guerra mondiale qua a Roma. Qua a Roma famo terza guerra mondiale, noi zingari. La vedi anche l'ingenuità di sta gente? Cioè voglio dire, ingenuità, se uno è ladro, è ladro. No, ma uno che si fa anche intervistare. E beh, certo. Cioè voglio dire, sono talmente pericolosi, alcuni forse lo sono, che si fanno intervistare! Cioè i criminali che si fanno intervistare con la faccia, viso scoperto, sono ladri a mangiare, a rubare nelle case a poveri. Cioè, questi sono un pericolo? Ma fatevi ma la camorra, l'andrangheta, quelli mica vabbè, si fanno intervistare. Adesso, i criminali dei colletti bianchi, adesso è il rom che si fa pure intervistare e dice no, vado a rubare case, a rubare, e questi sono criminali, questi sì, certo, sono ladri, d'accordo, non c'è dubbio. Allora, si sa dove stanno, dai. Durante questa puntata vi sveleremo tutto su Razzi, il film di Razzi. Lui l'ha un po' mezzo annunciato, noi abbiamo altri particolari, altri dettagli. In primavera protagonista di un film, non è proprio così, ma vi sveleremo tutto nel corso della puntata. Stiamo facendo il film. Quale? Questo sì. E il regista è Sergio Martino, il coreografo, quello che sta manovrando tutto, diciamo, sta organizzando tutto, è Carlo Maietto. Insomma. Ma che film? Questo non lo sappiamo. Cioè, lei sta facendo un film con Lino Banfi? No. Cosa sta facendo? Non ho capito. No, io so solo che ci sono io. Cioè, lei sa. Ci sarà anche un'altra serie di attori famosi, ma non lo so chi sono. Questo non avete ancora fatto una ripresa, cioè avete solo no, a primavera dovremmo indonizzare. Beh, anche il film, Parenzo, anche il film, anche il film. Beh, è perfetto, signor però Leandro, per un film, Diana, per una commedia all'italiana mi sembra assolutamente adatto, assolutamente adatto. Perfetta. Ma abbiamo con noi il prete più rivoluzionario d'Italia. Lo sai chi è, no? Cioè, il prete? Il prete più rivoluzionario d'Italia. Il prete... No, per me c'è solo il Papa, vero? No, ma che Papa? C'è anche il prete più rivoluzionario d'Italia. Il prete che vuole il matrimonio tra gli omosessuali. Il prete, sposare tutti. Che vorrebbe sposare tutti. Certo, il prete che vorrebbe anche i preti sposati. Da quello che ricordo, Don Paolo Farinella, buonasera. Buonasera. Come buonasera. Andiamo? Don Paolo. Ma abbastanza, tiriamo avanti. Tiriamo che avanti è successo? In mezzo all'acqua. In mezzo all'acqua, ma lei è stato allagato pure lei a Genova o no? No, pochissima cosa a confronto di Senta, ma lei che farebbe, questo... che farebbe a Burlando se lo trovasse di fronte? Niente, lo manderei a casa, perché con tutti i guasti che ha fatto. Sì. E anche perché i sondaggi che mi hanno riferito di oggi danno, ed è per questo che il PD sposta o elimina le primarie, gli danno massimo al 25%, 5 stelle al 15% e 50% non va a votare, quindi vi potete rendere conto di come siamo malmessi, no? Burlando è proprio responsabile negli ultimi 25 anni, per un verso o per l'altro, 8 anni di governatorato dello sfacelo in cui... Ma lei chi voterà, Farinella? Chi voterà in Liguria? Stiamo valutando, perché stiamo con un gruppo di persone, stiamo preparando un libro bianco proprio sulla Liguria e sulle elezioni prossime, probabilmente faremo anche un nome. Un nome, addirittura. Don Paolo Farinella, prete di Genova, farà un nome, stupendo. Io non mi si candidi lei direttamente, Don Paolo. Figuriamoci. Si candidi lei. Come? Si candidi lei. No, non è... Ma lei scrive per Micromega, strada. Parla di politica, ma è perfetto, Don Paolo. Vabbè, parlo di politica perché vivo in mezzo alla mia città, vivo nella benissimo. Mia regione, vivo in Italia, e cosa volete, che faccia giocare i bambini oppure che vi dica le giacolatorie? No, ma assolutamente. Il mio compito è di essere un cittadino e mi avvalgo di tutti, dei diritti e dei doveri. Certo, assolutamente. Senta, ma lei non è un po' offeso? Tanto, non è un po' offeso dal fatto che il patto tra Berlusconi e Renzi si chiami patto del Nazareno? Ecco, uno... No, non sono offeso dal Nazareno, perché il Nazareno, sono convinto, come dice Isaia 1:10, si gira dall'altra parte. Addirittura. Si rivolta nella tomba. Si gira proprio dall'altra parte. Non, io quando voi venite. Comunque Berlusconi è ancora in sella, Berlusconi è ancora in sella, ancora va in televisione. In sella, governa di fatto, è lui che tiene il boccino. Tiene il boccino lui, no, maestro, non esageriamo. Il bar è un po' eccessivo. E quindi come si fa? Voi dicevate prima del ladro. Siamo arrivati ad un punto in cui quando un ladro ormai definito Berlusconi, in terzo grado è l'artefice delle riforme dello Stato, capite che chiunque si sente impunito. Chiunque. Senta, ma invece il nuovo leader Salvini, lei come lo vede? Poi le chiedo del Papa, il nuovo cioè lei lo può vedere Salvini oppure per lei lo vede come il fumo negli occhi? Chi? Salvini. Ma Salvini lo vedo come il fumo negli occhi. Cioè un razzista? Un razzista. Fuori dalla grazia di Dio. Addirittura. Sì. Cioè lo scomunicherebbe se fosse... ma dico, è semplicemente... No, perché lui è molto religioso. Incapacità di leggere, a questo interessa semplicemente il risultato del potere, di andare al governo, di fare... Ma lei lo definisce un razzista, Don Paolo? Beh, forse, come dire, lui probabilmente lo è, perché... Sì. Scomunichiamolo, è una bella... Lei lo battezzerebbe, gli darebbe la comunione o no? Dipende da se si converte, perché in queste condizioni lui è molto cattolico. Non può farlo, in queste condizioni, con queste cose non può farlo. Per quello che dice da dargli l'ostia, diciamo. Sarebbe completamente contrario a quelli che sono addirittura gli insegnamenti sia della dottrina sociale che della quello che dice dovrebbe portare un prete a dire non ti do la comunione. Dovrebbe dire, come dire, lui è per su un altro piano, su un'altra strada, che contraddice quello che chiederebbe. Un attimo perché solo. La comunione è un sacramento di universale, è un sacramento, certo, i problemi ci sono, bisogna affrontarli. No, però lei dice, essendo razzista, uno dice perché devo dare la comunione a uno razzista, no? Beh, amico mio, dopo ti devo raccontare di una cosa che è apparsa su Famiglia Cristiana. No, ho letto tutto. Famiglia Cristiana contro di noi, amico mio. Sono furibondo. Sono furibondo, ma avremo da dire. Avremo da dire. Mi prudono le mani. Mi prudono le mani. Hanno tutti i torti su. No, ma senti, siccome devo rispondere io a Famiglia Cristiana. E mi tocca dire che Famiglia Cristiana non è che. No, ma siccome devo rispondere io a Famiglia Cristiana, ne parliamo dopo. Non ti preoccupare, adesso c'è l'intervallo, ne parliamo dopo. Perché sennò altrimenti litighiamo qua in diretta. Per cui la difesa la faccio io. Poi tu puoi dire quello che ti pare, ovviamente. Dico come sempre. Il mio parere su Famiglia Cristiana. No, Famiglia Cristiana ha detto delle stronzate pazzesche. Anzi, paragonando questa trasmissione a una radio che incita all'odio, che è una cazzata memorabile. No, quell'episodio una cazzata. No, lascia perdere l'episodio. No, ma lascia perdere l'oggetto della discussione. Quello ho letto io. No, beh, leggi bene, leggi bene. No, leggi bene alla fine. Leggi bene alla fine di questa cosa qui. Ma è inutile. No, ma leggi tutto. Leggi tutto bene. Tutto l'ho letto io. No, non hai letto bene. Ma abbiamo con noi Don Paolo Farinella. Il Papa oggi si è scagliato contro i preti affamati di soldi. Ha ragione, Don Paolo? Ah, sicuro, ha ragionissima. Ma lei se li sono fa pagare? Lei se, lei io se... dico da un sacco di anni. Ma lei se li fa pagare i battesimi e le messe? No, assolutamente, qui non si paga niente. E chi è che non se li fa pagare, niente, però? Quelli che se li fanno pagare magari è per mettere a posto una cosa in chiesa, per riparare a qualche cosa, o no? Beh, però ci sono, come dire, se è una comunità e la comunità è sensibilizzata alle esigenze, lo fa spontaneamente, no? Esatto. Ci sono delle persone che fanno periodicamente dei versamenti alla parrocchia perché ritengono che per loro sia importante, no? E mentre tutto quello che avviene all'interno della chiesa deve essere sempre e comunque. Ma la maggior parte dei preti sono avidi, secondo lei? Ma guarda, le dico un fatto. No, me lo dica chiaramente, sì. Sì, gliele rispondo proprio in un modo tragico. Ho detto al cardinale Tettavanzi, quando era vescovo di Genova, se vuole fare la rivoluzione della diocesi o della chiesa, lei tolga l'amministrazione economica ai preti. Due terzi se ne vanno via. Addirittura. Con il terzo che resta, lei farà la rivoluzione e girerà la diocesi come un guanto. Perché due terzi sono ladri, secondo lei? No, sono ladri, come dire, hanno un concetto un po' come dire mondano. Addirittura due terzi della diocesi di Genova hanno due terzi del clero, due terzi del clero sono come dire attenti al denaro, sono... certo, perché se lei per esempio va addirittura in una chiesa c'era quando la conferenza episcopale ha messo la quota diciamo sinodale della messa a 10 euro mi pare che fosse, c'era un cartello in una chiesa in cui si diceva coloro che hanno prenotato la messa prima delle 7 di luglio sono pregati di passare in sacrestia per il conguaglio, ti rendi conto? Conguaglio. Senta, e lei non sa che cosa avviene a Roma e nel Lazio in modo particolare, perché ho avuto modo di verificarlo di persona. Però Don Paolo, scusi, ma il Papa rischia veramente la vita, come scrive l'altro giorno il Corriere della Sera? Secondo me sì. Ma da parte secondo di chi? Me stanno facendo di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote, perché c'ha tutti contro tranne due o tre, però la maggior parte sia dei vescovi che del clero ce l'ha contro, insomma. Cioè il pericolo non è l'ISIS. Secondo me farebbe bene a trasferire il suo ufficio a Buenos Aires, là sarebbe più sicuro. Addirittura, cioè lei dice che il pericolo non viene dall'ISIS, dagli estremisti islamici, ma all'interno del Vaticano. Ma figuriamoci, ma viene dal Vaticano, il pericolo del Papa in Vaticano. E spero che continui a mangiare alla mensa comune. E perché? Lo avvelenano. Perché per avvelenarlo devono avvelenare tutti. Ah, deve continuare a mangiare. Perché alla... il Papa va a mangiare, prende il suo vassoio, prende quello che c'è e va a sedersi. Come fanno a capire quando... Ma lui in che condizioni è adesso? Lui è molto stanco, mi pare, ed è anche solo. Allora, un attimo solo, questo, clamorosa rivelazione. Sì, no. Don Paolo, devo chiudere. Don Paolo. Dicono chiaramente che lui si sente solo e sta lavorando soltanto lui, e gli altri stanno a guardare che passi a da passare la nottata. Allora, innanzitutto la zanzara è diventata un programma dove ti prendono dal conduttore. Il conduttore è un imbecille e quindi si circonda di imbecilli, d'accordo? In tutti i sensi. I can't pass, no. So I'm trying my best to leave. Allora, scontri alla radio. Beh, Salvini contro Furfaro. Allora, Furfaro chi è? Salvini lo conoscete tutti. Furfaro è quel deputato. Salvini è quello che va al pranzo servito anche, no? Sì, sì, poi sentiremo. No, poi sentiremo, sì, è andato al pranzo servito. Sì, no, ma mica la colpa. Anzi, era il 1999, se non sbaglio. Sì, 1993. Pranzo servito, quando disse sono nulla facente. Salvini lo conoscete tutti. Furfaro è uno che viene invitato spesso nei talk ed è un esponente di SEL che è stato lì lì per diventare parlamentare europeo. Poi a causa della scelta, come sapete, della signora, come si chiama, la dama di SEL, la super snob di SEL con i capelli bianchi, la Barbara Spinelli. Sì, scusa, SEL in realtà è della lista Tsipras. Della lista Tsipras, la signora Spinelli, Furfaro è rimasto fuori perché lei poi ha scelto un'altra circoscrizione, dunque è stata eletta al Parlamento europeo un'altra persona. Furfaro è però ospite, insomma, battagliero, molto battagliero. Salvini contro Furfaro, signor Furfaro. Com'è che ora gli italiani stanno male? Perché dopo 20 anni ancora c'è la povera gente? Come le hai risolti tu i problemi? Con la propaganda elettorale? Col fatto di dire sempre colpa di quello accanto? Dimmi una cosa che avete fatto. Che prima non c'era. Dimmi una cosa. Ma che stai dicendo? Li avete sanati? Fratello. Ma che stai dicendo? Tu hai firmato per cancellare la legge Fornero. Ma io chi lo fa? Hai firmato per cancellare la legge Fornero. Ma che stai dicendo? E allora hai firmato il referendum della Lega. Sono d'accordo, Sveglione. Sono d'accordo. Hai firmato il referendum della Lega, chi ha fenomeno. Detto, scusi? Io no, fermi un attimo. No, perché qui almeno... No, ma è questo esattamente Furfaro. No, ha detto sveglione, non coglione. Non coglione, signor sveglione. Porro, subito intervenuto, signor Porro. Sentiamo ancora, Salvini contro Furfaro. Sabato un sindaco della Lega Nord ha detto che i Rom sono da termovalorizzare. Matteo Salvini, io condanno la violenza che è stata fatta sulla sua auto, non gli ho sentito spendere una parola. Quella roba là si chiama nazismo. Sì, e ora si è visto fuori. Come se l'ha condannato la volenta. Ma scusa, sì, non ti ho sentito smentire. Non ti ho sentito dicevano, dire che i Rom sono da termovalorizzare. Peccato che Salvini non l'abbiano picchiato. Ma lo sai chi sei tu? Quello che dicevano che il Zingaro era la peggiore dei topi quando eri a Radio Padania. Auto del 2008. Questo sei tu, fermi, non voglio, non la mettiamo sul personale. Furfaro, in Europa io sono sereno. Furfaro, i campi Rom in Europa non esistono. Comunque ogni volta che gli ricordiamo le cose vere, non ci sono i campi Rom. Poi diremo la frase esatta che pronunciò Salvini, che effettivamente fece un paragone con i topi a Radio Padania. Abbiamo anche l'audio volendo. E in Francia esistono i campi Rom, peraltro. Beh, diciamo che in Francia sono molto duri sui Rom. Comunque, Furfaro contro Belpietro, bellissimo. Qui si parla di una cosa incredibile. C'è Furfaro, che è questo esponente molto giovane, che una volta aveva i capelli dritti, no? Adesso si li ha tagliati. Signor Furfaro parla della pubblicità delle donne, la solita cazzata della Boldrini, e dice che Trenitalia manda, cioè mette delle pubblicità, dei cartelli pubblicitari con la donna che è a casa ad aspettare il marito, che è un businessman. Cioè, signor Furfaro, ha notato questa cosa, signor Furfaro. Questa è una sciocchezza. A me piace molto Furfaro, ma questa è una sciocchezza. Ti piace molto Furfaro, pensa così. No, quel che lì pensa come combatte, mi piace come stai messo. Salvini, secondo me ha ragione. Ma su questa cosa qui ha detto una sciocchezza. Trenitalia. Come ci sono anche le pubblicità, tra l'altro le ferrovie dello Stato sono esattamente questo, cioè il padre che se ne va l'andata e ritorno da Roma a Milano e la madre che aspetta a casa. Il paese penso che sia anche pronto per un'altra cosa, che è la madre che se ne va a Milano a lavorare e il padre che sta con il figlio. Signor Furfaro, ecco, quando uno dice una cosa del genere, per me è chiuso, finito, cioè non è che uno, cioè, per carità, poi può dire quello che vuole, però uno, se si attacca alla pubblicità di Trenitalia per dire che c'è una pubblicità, come dire, sessista o contro le donne, vabbè, poi si accapiglia con Belpietro. Perché mettono la donna che serve a tavola o che sceglie il dentifricio? Per un motivo molto semplice, che la donna in genere decide gli acquisti di casa e quindi i prodotti di largo consumo. Il maschilismo, eccolo. Li decide la donna. È esattamente questo. Non li decide gli acquisti di casa. Lo decide la donna. Ma Belpietro, ma può restare a casa pure lei a decidere gli acquisti di casa e ci risparmia di editoriali. Ma guardi, posso, sì, anche lei potrebbe stare a casa, che almeno non la sentiamo. Ma io lo ammetto. Non la sentiamo e stiamo più tranquilli tutti quanti. prevalentemente il dentifricio magari lo sceglie la donna, perché fanno più spesso, vanno al supermercato più spesso, ma basta entrare in supermercato per accorgersene, non c'è bisogno di essere intellettuale. Io non credo che lei non c'entri da molto tempo, guardi, io invece c'entro perché spesso. Appartiene a una generazione in cui la donna era quella che faceva per lei, tutto per voi, entro nei supermercati, per fortuna, non sono invece così lei sicuramente non entra, sono perché non maschilista. Si è accorto che ci sono più non donne sono che uomini maschilista. E capisco quindi che si indigni come la Boldrini, che è del suo stesso partito, si indigni di questo fatto che la pubblicità metta le donne in alcuni spot. Pietro, non faccia comunque le banalmente, ma perché lei deve continuare a interrompere? Io sono stato a sentire tutto quello che lei ha detto, francamente, anche le bischerate. Vabbè, la discussione era chi va più nei supermercati, le donne o gli uomini. Secondo Belpietro vanno spesso le donne. Dunque, ma c'ha ragione, furfano su questo. Ma no, ma Belpietro ha detto un'ovvietà, che alle cose di casa spesso ci pensano le donne. Ma è un mondo che non esiste, ma non è vero, è la realtà. Nelle famiglie normali, ma non c'è oggi niente non di strano. È così, è una discussione assurda. Ho capito. No? Allora, se è sciocco quello di attaccare una pubblicità perché mette una donna, perché quello è sciocco oggettivamente. Belpietro ha detto una cosa ovvia. Ma che non è così, la società non è così oggi. Di casa ancora ci pensano più spesso le donne. A casa di Maurizio Belpietro probabilmente. Cioè, a casa tua dove è tutto al 50% no. Ma cioè, no, lì ci penso anch'io, ma ci pensavo prima anche 10 anni fa. Ma ci vanno più spesso le donne al supermercato, ma è normale che sia così. Cioè io ci vado perché abito da solo, che vuol dire? Ma che c'entra? Ma ci sarai andato anche prima ogni tanto a comprare sì, la roba? Sì, però cioè, devo dire che più spesso è un'immagine. Ma più spesso ci vanno le donne, ma è normale. Ma non è un'immagine normale. Oggi sai perché mi fa incazzare sta roba? Perché siccome oggi lavorano entrambi, sia l'uomo che la donna, perché la gente chi ha il lavoro in genere in una famiglia normale a reddito normale basso devono lavorare tutte e due. Sentiamo Giampiero da Prato, dai. Giampiero, Giampiero da Prato, vai. Pronto? Sì, dimmi. Ciao, senti, allora io ti chiamo per un motivo in particolare. Allora, noi alla Zanzara abbiamo sdoganato di tutto, l'omosessualità, matrimoni gay, abbiamo fatto qualsiasi cosa, ha parlato di nani che vanno a puttane, di tutto. Allora, quando sento Parenzo che interviene una persona e parla con la pancia, vuole dire tutto ciò che gli pare, come quello dei compattatori, con gli rom e tutte quelle cose che ha detto, deve essere libero di poter dire quello che cavolo gli pare. Ma che scherzo. Non è possibile. No, libero che vuol dire? Scusi, libero. Noi dobbiamo stare zitti, non ho capito. No, dobbiamo... se no non è più la Zanzara. Noi alla Zanzara abbiamo sdoganato tutto, possiamo dire quello che vogliamo. Sia tranquillo, che noi abbiamo sdoganato molte cose, è giusto, cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, deve parafrasare una cosa religiosa che conoscete. Sì. E che poi noi dobbiamo stare zitti mentre qualcuno dice le peggiori fesserie, questo francamente no. Zitti, ma Parenzo ha detto io ti denuncio. Ma quello può denunciare, quello è istigazione all'odio. No, ma scusami, uno può denunciare. Non è istigazione all'odio, no, niente. Una persona che viene, parla la Zanzara, parla con la pancia. Dipende quello che dici, ma dipende. Se uno dice. Giuseppe, viene incalzato da te sulle domande. Tu cominci a dire. No, ma non è questione di domande. Cosa pensi di Ron? No, a parte che quello ha telefonato lui. No, un momento. Ma non è che uno dice quello che cazzo gli passa per l'anticamera del cervello. Amico mio, allora Giampiero, pagare un prezzo. Giampiero, scusa un attimo, se uno dice bisogna fare dei rom un cibo per maiali, come ha detto quel tizio da Genova, Parenzo ha tutto il diritto, uno, di incazzarsi, due, di denunciarlo, punto, no, denunciarlo e basta. Quello sono affari suoi, lei vuole impedire a Parenzo di denunciare quel tizio, guardi che è incredibile. Allora la Zanzara deve chiamare soltanto chi parla con Radio Maria a questo punto. No, non ha detto che no, pensa, guardi, io sono dell'idea che qui possono intervenire tutti. Il senso di quella frase che Famiglia Cristiana mi imputa, cioè dire la frase uno può dire quello che vuole, certo, ma quello è normale, che uno può dire quello che vuole, dopodiché ci sono le leggi, non ho detto che uno è esente, è assolto in partenza, ho detto uno può dire quello che vuole, con dei limiti, viene interrotto da noi, magari lo mandiamo in onda per troppo tempo. Parenzo per esempio sostiene che Giorgio da Genova è stato mandato in onda troppo, poteva essere interrotto prima, sono io che comando e mi assumo la responsabilità di mandare in onda uno per 5 minuti, per 10 o per 15, ma non lo lasciamo parlare, non lasciamo dire quello che uno vuole. Se uno dice che fare dei rom è un cibo per bisogna fare dei rom cibo per maiali, io glielo faccio dire, ovviamente glielo faccio dire, ma subito dopo dico guardi che lei è pazzo, cioè lei è completamente rincoglionito, cosa significa questa cosa? Perché io voglio capire anche i pazzi. Ecco, Parenzo per esempio i pazzi dice che se ne può fare a meno. Ma quello non mi è sembrato un pazzo, questo è il dramma, questo vabbè, è il punto vero. Oggettivamente non è normale, non è normale uno così. Ma purtroppo invece purtroppo... Dopodiché i signori di Famiglia Cristiana che paragonano questa trasmissione alla radio Milcolin durante la guerra Hutu Tutsi, dicendo che ci vorrebbe, che quelli là sono stati condannati dal Tribunale Speciale Internazionale per il Ruanda, io vorrei dire una semplice cosa: andate a fare in culo. fa male solo a chi non sa ridere, è la zanzara. Sei ancora a casa, Simo? Sai perché mi sono arrabbiato così tanto per questa roba di Famiglia Cristiana? Non capisco perché. No, ma come non capisci? Perché lo sai benissimo. Cioè, allora, fanno un articolo, poi è sempre Famiglia Cristiana, bisogna vedere. Anche loro hanno diritto di come usare toni forti, per no? Per carità, loro possono fare quello che vogliono, ma non è in discussione questa roba qui. Poi è sempre Famiglia Cristiana, cioè non è che... Beh, è importante, sì, settimanale. Sì, è importante, per carità. Lettissimo, peraltro. Molto letto, certo. Zanzara Shock, fare dei rom cibo per maiali. Questo è il titolo dell'articolo. La trasmissione di Radio 24 si dà spazio alle tesi che invitano a termovalorizzare i rom. Veramente non è che abbiamo dato spazio noi. Questo è sbagliato. È un sindaco di un comune che ha scritto su Facebook, peraltro. L'ha scritto su Facebook, l'abbiamo chiamato e ce lo siamo, come dire, tra virgolette, inchiappettato, cioè l'abbiamo criticato per quello che ha detto. Che cosa dobbiamo fare? Un fatto di cronaca, non ce ne dobbiamo occupare perché i signori di Famiglia Cristiana non lo consentono, perché dicono che diamo troppo spazio a questi signori? Questo è un nostro format e, se permettete, parliamo di quello che vogliamo. Dunque, da spazio alle tesi che invitano a termovalorizzare i rom e allo sterminio completo degli zingari. Donne, uomini e bambini citano le intuizioni in materia di Adolf Hitler. Esagerato? Ma no, secondo il conduttore Cruciani, uno può dire quello che vuole. Ora, ovviamente, io non ho mai detto che non è esagerato quello che ha detto quel signore. È evidente che è esagerato, è una follia. Io non lo denuncio perché non me ne frega niente di mettermi in queste cose. Parenzo lo vuole denunciare, la nostra posizione è chiarissima. No, poi dicono che io faccio il falso scandalizzato. Tra l'altro, ma faccio scandalizzato per nulla, perché io sono scandalizzato, ma incazzato per quello che questo signore ha detto, figuriamoci. Il tutto veniva trasmesso da Milano nelle stesse ore in cui i fiumi della città esondavano e ancora una volta i rom erano tra coloro che pagavano il conto più salato. Beh, veramente non risulta. Comunque, il Lambro straripava e stravolgeva tutti gli averi di alcune famiglie che avevano costruito le loro baracche sul greto del fiume, ma la radio di Confindustria non se ne accorgeva, faceva più notizia e audience discettare di come trasformare i rom in cibo per animali. Allora, questo signore, che non è Famiglia Cristiana ovviamente per intero, ma si chiama Stefano Pasta, non ha ascoltato assolutamente nulla, zero, non ha ascoltato, ha ascoltato quei minuti in cui è intervenuto Giorgio da Genova. Questa trasmissione non si occupa dell'esondazione dell'Ambro, se ne occupa molto poco, a meno che non intervenga qualche ascoltatore, ha un altro tipo di format. Lo volete capire o no, signori di Famiglia Cristiana? Noi ci occupiamo di quello che ci pare. Se non ci occupiamo dell'Ambro che straripa, perché la gente si farebbe due coglioni così a parlare dell'Ambro che sta, sono affari nostri, perché pensiamo che le persone si annoino a parlare di queste cose. Ci sono altre trasmissioni, dunque non ci rompete le scatole con queste, col ditino alzato. Poi si può discutere di tutto, abbiamo dato troppo spazio a un signore, potevamo interrompere prima, per carità, ma io non voglio prendere lezioni sull'audience, essere criminalizzato come quello che deve essere condannato dal Tribunale Internazionale dell'AIA, l'ordine dei giornalisti, ma non, ho già dato su questo, Giuseppe da Trento, dai, Giuseppe da Trento. Pronti? Dimmi Giuseppe. Senti, adesso sentiranno quando mandiamo in onda il signor Bocedi, Paolone Bocedi. Gianni, mi scusi, volevo signori dire di Famiglia Cristiana. Una giornata di lavoro, mi senti o no? Sì, come no? Ma come si fa ad amareggiarsi a sentire Don Paolo? Ma lei chiami persone un pochettino più intelligenti, che dicono magari una barzelletta, ma non certe fregnacce e stupidaggini che ci raccontano questa gente da 2000 anni. Cioè che cosa? Che il Papa è in pericolo di vita? Che cosa? Ma tutte cazzate che ci raccontano da 2000 anni, le favole per i bambini scemi ci raccontano i cattolici, la religione. Ma che cazzo stiamo a sentire ancora sta gentaglia? Ma lui non mi ha capito, lei chiama a parlare, a sentire, a ascoltare, a fare ascoltare coglionate che fanno ridere una persona che ragiona. Ma io non ho capito, che cos'è che l'ha colpita dell'intervento di Don Paolo? Ma tutte le fesserie che racconta, che il Papa lo vogliono accoppare, e che Berlusconi non so che cazzo ha fatto, quell'altro. Ma noi dobbiamo prendere ancora lezione da questi imbonitori che sfruttano la benaria, sarebbero da condannare, da processare per sfruttamento della, come dire, non dico circonvenzione di incapaci, ma quasi. Vabbè, per me è peggio quello che ha detto Landini sulle persone oneste, sono cose diverse, ma io mi scandalizzerei molto di più per quello che ha detto Landini, che Renzi non è votato dalle persone oneste. Cioè, beh, poi ha chiesto scusa. Ma non mi interessa, ha chiesto scusa. No, Landini è uno di quelli, è uno dei pochi che chiede scusa quando dice una cosa. Mi scusi, mi dica un po', Cruciale, ma sta casa di Famiglia Cristiana, con quali soldi è che pubblica tutte queste coglionate? Vabbè, che c'entra questo? Ognuno... Vabbè, ma quello ognuno può scrivere quello che vuole, per carità. Io poi li attacco perché pensano di denunciarmi, che debba essere mandato al tribunale internazionale. Ma dare lezione di vita questi signori. Ma a me lo dice, non ne parliamo. Ma allora non chiami questa gente, chiami che cazzo, ma non chiami. Vabbè, chi chiamo o chi non chiamo sono affari miei. Maurizio da Brescia, grazie Giuseppe. Maurizio da Brescia. Ciao Giuseppe. Dimmi. Volevo fare un piccolo intervento per alleggerire un po' la cosa. Una delle prime frasi che ha detto il tuo compagno, amico Parenzo, no? Ha detto che si stava pensando di comprare la felpa della Fiom, no? Ma è un'idea che gli ho dato io. Cioè, non è un'idea che gli ho dato io. Ma farebbe bene a me a comprare la felpa della Fiom. Può essere che la prenda, certo, però essendo grande tifoso della Fiom. È un po' ridicolo, non essendo io un metalmeccanico, ma posso prenderla volentieri. Non è che ce l'hanno solo, non è che ce l'hanno solo i metalmeccanici. No, vabbè, certo. Però io, se fossi in lui prima, leggerei l'etichetta, perché c'è scritto Made in Cina. Ecco, guarda, questo te lo posso dire. Piuttosto che comprare quella con scritto Fiat sopra, che non comprerei mai, prenderei volentieri quella della Fiom. Stupidaggine. Se Made in Cina, quelle fatte da Napoli, Fiat. Fiom, eh? Molto meglio quelle con scritta Fiat di Lapo il Cane che quelle di Landini con scritto Fiom sopra, guarda, tutta la vita. Ma è molto meglio quello che sei voglia, capito? Ma cioè, sì, ma ognuno mette quello che vuole. Parenzo vuole mettere quella della Fiom, la felpa della Fiom, cioè, tu stai dicendo, Maurizio, le regioni italiane, stai dicendo che è made in China, e vabbè, ma no, questo è un'altra questione. Fa parte della grande ipocrisia, della grande contraddizione. Non lo so se è made in China. Lo dice Maurizio, adesso non lo so, fosse così, certo. Riccardo da Milano, vai. Pronto? Vai, dimmi. Allora, io ti voglio far fare soltanto un passettino indietro di un quarto d'ora circa. Sul discorso che ha intervenuto quel prete, che dicendo che sui versamenti della Chiesa da parte dei parrocchiani e altre cose del genere. Sì, è quello che ha detto il Papa, che esiste che i preti le devono smettere di chiedere i soldi per le cresime, per la comunione, eccetera, eccetera. Ma ascoltami, Cruciani, c'è un listino, io ci lavoro con la Chiesa. In che senso lavori con la Chiesa? Spiegami. Lavoro in un settore che si interfaccia spesso e volentieri con la Chiesa. Prova tu ad andare a fare un funerale su una zona come potrebbe essere quella di Milano, che io conosco molto bene, e senza che tu debba prendere e fare un'offerta alla Chiesa. Prova ad andare a farlo. Cioè, tu dici, senza soldi non si fanno matrimoni, non si fanno funerali, non si fanno... No, si fanno, sicuramente si fanno. Cioè, si fanno se è una famiglia che già normalmente contribuisce alla Chiesa, se durante l'arco dell'anno, senza nessun problema. Ma se tu sei un parrocchiano normale, che normalmente ti prendi e ti interfacci con la Chiesa quando ci vai a Natale, a Capodanno e alle feste comandate, in chiesa e basta, vai a fare un funerale che il prete non ti conosce. Vai a fare un funerale in chiesa e la chiesa ti dice semplicemente sì, ok, va bene, lo possiamo fare, d'accordo, però te lo fanno a denti stretti, te lo fanno, non ti voglio dire di serie B, perché non sarebbe brutto dirlo, ma c'è un listino ben predeterminato, il prete sa già che cosa chiederti, se una persona si interfaccia, sì, però scusate, non è che la chiesa da questo punto di vista sia un'istituzione pubblica, cioè la chiesa è una poi il papa decide tutto, se il papa decide che non va bene, non va bene, però la Chiesa è una, come dire, una è uno Stato, c'è la città del Vaticano, eccetera. Uno fa un funerale, il prete della tua parrocchia ti chiede un funerale, un matrimonio, quello che è, ti chiede 2000 euro. Adesso dico una cifra, se vuoi, se va bene, va bene. Non è che sia un diritto, non è come andare in un ufficio comunale, giusto, Parenzo? Non lo so. Cioè, no, ma infatti, questo c'è. Cioè, se la Chiesa anche chiede. Loro, non so se si chiamano appalti, se non la so come si chiamano. La Chiesa chiede dei soldi per i battesimi, per le messe, eccetera, in onore di qualcuno. Però ha ragione il Papa quando richiama su questa roba. Adesso ci ho pensato rotta, bene, no, ma è populismo, però, anche questo. Ma è populismo, è un servizio. Dipende a cosa servono quei soldi, certo, se uno se li mette in tasca. Se servono per le missioni, benissimo. No. Benissimo. Sono d'accordo con voi del fatto che non debbano esserci, che non sia un luogo comunale di conseguenza. Non è che è un ufficio pubblico, dice, ma hanno chiesto alla mazzetta per fare una cosa di cui ho diritto. No, però alla sacra rotta si sa che c'è un tariffario, ad esempio. Nella tua funzione di prete, che cosa fai? Tu mi affitti il tuo spazio e il tuo tempo, punto. tu mi affitti il tuo spazio e il tuo tempo e mi chiedi una cifra in cambio, cosa che invece in un certo senso, secondo quello che dovrebbe essere la normalità, dovrebbe essere gratuita. Ma la gratuita secondo chi? Chi l'ha detto? Se la Chiesa lo decide, se il Papa lo decide, va bene, da questo momento in poi è gratuito tutto. Però i sacramenti dovrebbero essere gratuiti. Ma questo chi l'ha detto? Ma chi lo decide? Ma cioè, no, non è chi lo decide, dappertutto è così. Secondo, se io voglio andare in chiesa, voglio semplicemente pregare, ok? Voglio prendere, accendere un lumino e prendere e pregare. Fai un'offerta se vuoi. Se per vuoi. Forza fare un'offerta, d'accordo? Se vuoi la fai. Può essere un'offerta libera. Io ti sto dicendo invece un'altra cosa, ti sto segnalando il fatto che non è un discorso di offerta libera, ma che ci siano dei listini predeterminati che i preti ti chiedono per fare certe determinate. Questo è diverso. Sì, ma questo perché ci sono alcuni molto più. Allora, dipende da com'è la situazione. A un certo punto mi dici, ok, va bene, mi dici, io ti affitto come se fosse, che cazzo ne so io, un locale, ok? Sì, ti affitto sì. Un locale con intrattenimento, è la stessa cosa. Ho capito perfettamente. Secondo te i tariffari sono sbagliati. Grazie. Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Allora, ragazzi, a proposito di denunce per odio razziale, ormai fioccano le denunce per odio razziale, l'altro giorno è venuto da noi, come sapete, l'abbiamo anche detto ieri, Gianluca Bonanno della Lega Nord a parlare di Rom, ha detto alcune frasi, non so se le abbiamo ancora, non so se ce l'abbiamo, Bonanno sui Rom. Vabbè, ha detto che i Rom hanno in qualche cromosoma qualcosa che non va, hanno il genoma della delinquenza, sono portati a delinquere, questa è la frase, poi ve la faremo riascoltare. Genoma. Lo vuole portare in tribunale il signor Marcello Zuinisi. Ottimo. Nostro ottimo. Ospite, rappresentante legale di Nazione Rom, buonasera. Bravo. Buonasera. Salve Zuinisi, allora, ma veramente lei mi ha allegato anche la denuncia che avanti ha fatto. Avanti tutta Zuinisi, avanti tutta. Vabbè, dai, ma state esagerando. Basta. Tu Zuinisi. Basta con questa roba, Melma. State esagerando, addirittura. Gente eletta in Parlamento, vabbè, che si schermerà dietro, si difenderà con lo schermo dell'immunità parlamentare, peraltro. Rinuncia all'immunità. Allora, Zuinisi, lei mi ha mandato anche la denuncia, come direbbe Taormina, che ha fatto alla Legione Carabinieri Toscana per odio razziale ed etnico. Tra l'altro hanno scritto anche razziale ed etnico con una sola Z, però vabbè, signori carabinieri, per carità, li perdoniamo. I signori carabinieri. Un errore della battitura. Sì, è stato un errore della battitura della macchina da scrivere. Comunque, odio razziale ed etnico, con una Z. Mi perdonino il signor maresciallo della stazione Carabinieri Toscana. Io voglio benissimo i carabinieri. Ho sbagliato a battere. Poi uno dice del caso Cucchi, dove addirittura sbagliavano a mettere il nome della persona. No, stai attento, dai, adesso stai esagerando. Dai, no, non esagero per niente, perché Cucchi sbagliarono addirittura, pensavano fosse albanese, passato la notte in cella. Pensate, allora, signor Zuinisi, ma veramente vuole portare in tribunale il signor Bonanno? Guardate, ieri e oggi ero a Roma, abbiamo fatto una riunione con i delegati della società civile Rom e ci siamo andati a fare delegati società civile Rom. E che è società civile Rom? Dove sto scrivendo anche io le persone che dell'etnia Rom, ero con Naya Zovic, tra l'altro eravamo con Rete 4, perché lunedì ci sarà una diretta da Salone, da un campo Rom di Roma, con Matteo Salvini in diretta su Quinta Colonna. Sì. Allora, succederà un casino, lei già lo sa, succederà un casino lì. No, noi anche Bonanno, che tra l'altro poche ore fa ha replicato che ora lui, dopo che io ho fatto questa denuncia, andrà tutte le settimane a visitare un campo Rom, gli abbiamo detto bene, vi aspettiamo con educazione, gli offriremo un caffè, faremo due chiacchiere insieme. Poi siamo andati a fare l'analisi del sangue, perché siamo andati a vedere se i nostri cromosomi erano dei cromosomi criminali. Insomma, invece è venuto fuori che io ho il cromosoma XY e la moglie di Samira Lia è venuta fuori. Scusi, però le voglio dire che secondo me è un modo per dire che c'è un tasso di criminalità molto alto nei Rom, non è che lui... Ma questo non è vero, perché i dati UNAR, Presidenza del Consiglio dei Ministri, usciti una settimana fa, ha attestano che in un campo rom non regna la legalità in genere in un campo rom, diciamola tutta, anche lei lo deve ammettere, e va bene anche che lo ammetta, come quel rom che prima abbiamo ascoltato, che ha detto faccio il ladro, che ieri era non so dove, da virus credo, da porro, no, anno uno mi ad anno uno che ha detto faccio. In un campo rom c'è un tasso di criminalità in genere più alto, la gente vive anche di espedienti di criminalità, ma di furti, di cose così, ma non è che lo scopro io, sono dati della polizia di Roma che uno può, sì, può però avere. La stessa polizia di Roma, UNAR, ha estratti i dati della polizia nazionale, è venuto fuori che gli stranieri delinquono meno degli italiani. Questi vabbè, ma quello per i numeri, cioè i numeri certo che in proporzione per i numeri sì, ma che se uno si concentra tra quelle 200 persone che sono lì, il tasso di criminalità è più alto, su quello non c'è dubbio. Guardate, io non so che dirvi, oggi ero con Samir che lavora col Ministero degli Interni, chi è sto ero Samir? Con Naio che lavora a un'associazione vabbè, cattolica, ma... con Graziana Lilovic che vabbè, ma quelle ma certo, lei lavora con non è che lavora con i criminali, non ti sta spiegando. Ma io anche, guardi, sta ascoltando per esempio la trasmissione Nano Biocel, che è un rom che vive in Santissima Annunziata, dorme in terra, sì. E parlavamo dei maiali, no? Perché dorme in terra, perché dorme in terra questo? Dorme in terra perché il comune di Firenze gli ha. Ma non si può dormire in terra, amico mio, non si può dormire in terra perché non ci, da 4 anni e mezzo stiamo richiedendo. Non è che ha scelto di dormire per terra. No, ho capito. Viene a casa con me, stasera viene a casa. Vabbè, ma con quello me. Va bene. Allora, io non ho capito una cosa, perché vuoi parlare? Perché vuoi parlare e vuoi portare, scusa Marcello, ormai ci conosciamo anche se per telefono, perché vuoi portare il signor Buonanno in tribunale? Spiegamelo. Allora, io lo voglio portare in tribunale perché è vero che c'è la libertà di opinione, ma affermare in maniera razzista. Tu tra l'altro che cosa sei? Sinti o Rom? Che cosa sei? Sinti o Rom tu? Io sono Senti. Essere umano. Rom significa uomo, lo sapete? No, vabbè, ma non, che tu sei un essere umano, nessuno lo mette in dubbio, dai. Allora, perché lo voglio portare in tribunale? Perché affermare che un cittadino Rom è geneticamente criminale, questo lo diceva Hitler degli ebrei, certo. Di Rom, no? Cioè, dunque, secondo te Buonanno è un razzista? Sì, è evidente. È razzista, cioè, secondo te va a portare, come dire, pure tu Parenzo lo dici, diglielo razzista, in faccia. Questo direi, non glielo dici mai tante in volte. Faccia, no, non glielo ma dici mai. No? Ma telefono glielo dico sempre che dice cose razziste, ma questo a me mi è arrivata una lettera dal il presidente Juan de Dios Ramírez, che è stato il primo Juan de Dios Ramírez, è stato il primo parlamentare in Unione Europea di etnia Rom. Ma per te sono tutti Rom, hai detto pure l'altra volta che Bendola era Rom, che madre di Sedica Cuta era Rom. Mi è arrivata una lettera e questa lettera denunciava, l'altra volta parlavamo anche della stazione Santa Maria Novella, come quello che sta succedendo in Italia, queste proposte per esempio degli autobus separati, neanche negli Stati Uniti era successo, perché i neri e i bianchi sedevano negli stessi autobus. Qui la Lega Nord sta facendo una campagna elettorale, Buonanno, Salvini, che ha un carattere che neanche l'apartheid che era negli Stati Uniti era, tant'è che oggi come abbiamo... l'apartheid? Non ho capito, scusa. Negli Stati Uniti negli anni 50-60 un nero non poteva sedere nei posti dei bianchi. Cioè, secondo te la Lega è paragonabile al Ku Klux Klan, una cosa del genere? Per certi tratti è peggiore. Peggio del Ku Klux Klan, ma Giunisi, dai, su, ma veramente dell'esagerazione. Per certi tratti è peggiore. Marcello, dai, su. Vi do un'anticipazione, ok? Il Quirinale, e l'ufficio giuridico del Quirinale, presieduto dal consigliere Montedoro, unitamente a un altro magistrato che è il dottor Lupo, il consigliere diplomatico Antonio Gerardi Landi, stanno valutando la sospensione della Lega Nord dalla campagna elettorale, dalle elezioni per domenica. Vabbè, ma questa cosa è una cazzata, dai, Giunisi, dai, su. Così, cioè, lei ci sta dicendo, secondo le sue fonti, che il Quirinale sta valutando l'esclusione della Lega Nord. Dica i nomi, chi? Perché non l'ha detto, l'ha detto. Questo è importante. Ma non ho capito, per quali elezioni? Per quali elezioni? Per le elezioni della regione Emilia Romagna ora. Ma adesso come fanno a sospendere? Se vota domenica. Zuini, un attimo solo, fermo lì. Fermo lì. La Zanzara. E il conduttore? Sì, è conduttore, certo. Questo è sempre il numero uno. È tanto che non chiama. È tanto, anche Understand, lo ricordi? Understand? Ah, quella lì, sì, quella signora. Quella calma e pacata donnina. Allora, bisogna dire qualcosa su Storace, però. Non l'abbiamo detto. Infatti, mi stupisce. No. Sono contro la sentenza di condanna. Meno male. Allora, però, si è sfiorato il ridicolo, diciamo la verità. Probabilmente qualcuno ha voluto dare una lezione a Storace. Non è stata cambiata la legge, dunque, se la legge esiste, uno può essere anche condannato. Mi stupisco come i giudici, però, di loro spontanea volontà, essendoci in Italia l'obbligatorietà dell'azione penale, non intervengono per lo stesso reato su dichiarazioni analoghe contro il capo dello Stato, anzi decisamente peggiori, decisamente più dure, fatte, che ne so, da Fedez, fatte dai Grillini, fatte da altre persone ancora contro Napolitano. E cosa disse Storace, che oggi è stato condannato a 6 mesi di reclusione, pena sospesa? Se vuoi fatte anche da Travaglio. Se fate anche da tutto. Travaglio in sono, qualche pa, anche se Travaglio su no, ma se uno vuole mettere in fila tutto, certo, non c'è dubbio. Ma io legittimamente, sono contro legittimamente secondo me è una sciocchezza il reato di vilipendio al capo dello Stato, è una sciocchezza, cioè, secondo che, me che è successo? Nel 2007 Napolitano difese la senatrice a vita Montalcini dagli attacchi della destra. C'era un attacco politico molto forte per il fatto che la Montalcini votava, no? In quel momento a favore del governo Prodi. Sì. Il senatore, ecco, lì fu. Vabbè, ma quella è una questione. No, ma infatti lì nel merito. Vabbè, Storace fu proprio Storace, fu veramente. Vabbè, ma non di cattivo la Montalcini, gusto, secondo me oltre. In parte aveva anche ragione. Ma in parte aveva anche ragione perché i senatori a vita che erano schieratissimi a fuori del governo Prodi, ma lasciamo perdere il merito. Storace definì indegno della carica Napolitano. Ora adesso, ragazzi, con tutto quello che si è sentito su Napolitano negli ultimi anni, il fatto che solo Storace sia stato condannato a 6 mesi di reclusione per vilipendio a capo dello Stato grida vendetta. È una cosa veramente patetica e ridicola. Detto questo, è patetico quello che ha scritto la signora Alessandra Mussolini. Che cosa ha scritto? Boia chi molla, no? Vabbè, quello è un boia chi su molla su Twitter per commentare la sentenza, che perché pure... qui siamo davvero ma che deve vabbè dire? Ma la nipote del nonno, dai, su. E vabbè, boia chi boia molla chi è un grido molla. dei giovani di destra. Balilla. Vabbè, boia chi molla, giovani nel senso, balilla, ma no, dai. Ma boia chi molla è... Sai cosa dicevano a Padova? Che dicevano? Quando i fascisti scrissero sul mio liceo classico boia chi molla, i miei amici, i compagni di notte scrissero sotto scorese, punto esclamativo. Sì, vabbè, ho capito, ma perché non ho capito perché vanno bene i comunisti e non vanno bene i fascisti? No, non lì ho fecero una battuta di spirito divertente rispetto a un motto che ricorda gli anni 30, dove anzi degli anni 20, scusa, del 22 in poi, in cui il boia chi molla era il sinonimo però, dei manganelli e dei rastrellamenti. Sì, d'accordo, però Alessandra Mussolini, insomma, in questo caso boia chi molla lo dice chiaramente a Storace, dice ma che non mollare, dice ma chi non deve mollare? Però fermi tutti su quello che ha detto Zunisi prima, cioè che Bonanno è razzista, che addirittura la Lega è peggio per certi aspetti del Ku Klux Klan. Ci stava ascoltando, ci ha chiamato e giustamente lo mettiamo in onda, anche se di solito non facciamo queste cose. Beh, è il diretto interessato. Buonanno, finirà in tribunale, finirà in tribunale, Gianluca. Beh, spero, sono contento, certo che con tutto quello che hanno da fare i tribunali, occuparsi di uno che mi denuncia, sto Zunisi, che è un essere, che sei definito lui un essere umano, no? Denuncia all'immunità. Sì, un essere umano che è stato condannato per appropriazione indebita e falso ideologico e si nomina Associazione Nazionale Rom. Cioè io devo avere a che fare con uno del genere che dice che i Rom sono tutti santi, tutti buoni, tutti belli, e lui per primo è stato condannato 1 anno e mezzo per appropriazione indebita e falso ideologico. Complimenti. Ma io non so, quella condanna. Rinuncia all'immunità. Zunisi, la condanna, perché cos'è la condanna che hai ricevuto? La condanna che io ho ricevuto è stata emessa dal Tribunale di Firenze il 13 aprile e si tratta di essere stato condannato perché l'accusa è che io avrei preso un foglio da una signora dove c'era l'iscrizione al registro delle Onlus e sarei andata alla provincia di Firenze a chiedere di iscrivere allora Opera Roma di Toscana al registro delle Onlus. Una vicenda complessa, comunque sei stato condannato. Vabbè, è semplice, ho preso 1 anno e mezzo primo grado con i miei avvocati, preparato l'appello e stiamo preparando. Allora hai qui di fronte Buonanno, continui a definirlo razzista? Ascolti, io dico una cosa, io oggi ho cercato di contattare Alan Fabbri, forse ci riesce l'onorevole Buonanno, perché? Perché Alan Fabbri ha dichiarato che in Emilia Romagna i Rom non potranno salire con gli stessi autobus con i non Rom. Allora, per questo motivo il Quirinale sta intervenendo. Ma è una cazzata questa del Quirinale, Zunisi, dai, ma non è vero. Allora chiamate il Quirinale anche lunedì mattina. Cerchiamo sta frase di Fabbri. Fabbri che cosa ha detto? Che i Rom non potranno salire sullo stesso autobus. Esatto, questo lui vuole proporre, se fosse eletto, all'interno del patto di mobilità, che farà linee separate degli autobus. No, basterebbe che Alen Fabbri, visto che è stato contattato dal Corecom nei giorni scorsi. Vabbè, ma al di là di Fabbri, guardi, diglielo in faccia, Bonanno, sei un razzista, diglielo. Gliel'ha detto. Bonanno, veramente, io te l'ho detto all'aria che tira, ti ho chiesto di moderare il tuo linguaggio, scusa, però io vedo che Bonanno pensa prima di parlare, ha questo problema. Cioè, è razzista o no? Diglielo, sei un razzista. Sì, è un razzista. Allora io sono Bonanno. Orgoglioso di essere razzista. Se per razzismo significa cercare di tutelare chi si comporta bene rispetto a chi si comporta Bonanno, male. Ma i miei cromosomi sono umani o criminali? Guarda, i tuoi, da quello che risulta qui, le cose dalla prima condanna sono dei cromosomi criminali. Quelli di Umberto Bossi, come sono i cromosomi? Guarda che funzionano meglio dei tuoi. Ah, funzionano meglio. E quelli del vostro cose. Come sono i cromosomi? Il genoma devi denunciare Parenzo, perché la parola genoma l'ha tirata fuori Parenzo. No, lei l'ha tirata fuori. No, io te l'ho chiesto. Bonanno, un anno fa c'è un'intervista. Io non l'ho mai pensato. Siamo criminali nel DNA, c'è l'intervista che l'ha lasciata Repubblica. Bonanno, onorevole Bonanno. Ma il pensi prima, lavori più col cuore, veramente. Però scusami, Zuinisi, adesso non per fare la difesa di Bonanno, che si difende bene da solo, il significato di quelle parole, adesso al di là della querela, basterebbe che Bonanno chiedesse scusa. Guarda, vediamo se riusciamo ad arrivare a questo. Bonanno, chieda scusa al Rom Zuinisi, faccia così. Chieda scusa per le parole usate. Non devo chiedere scusa a nessuno, perché quello che dico è quello che penso. Uno. Secondo, io ho fatto un ragionamento di questo genere, lo ribadisco, lo ribadirò sempre. Se fin da quando sono bambini piccoli li insegnano a rubare, non tutti, ho anche detto che ci sono rom molto da rispettare, ho detto anche quello in premessa, quindi diciamola tutta. Gran parte, però hai detto che gran parte dei rom rubano. Gran parte dei rom sono inclini alla delinquenza, ma evidentemente partono fin da bambini, perché se non li mandano a scuola, se li mandano a delinquere come dice la polizia, le forze dell'ordine, come lo dicono a me, lo dicono a tutti ovviamente, perché sono minorenni, se hanno le macchine belle in molti casi ma non lavorano, se sono pieni d'oro e non lavorano, dove vanno a prendere questi soldi? E la domanda era... Zuinisi, questa qua è una cosa razzista? Zuinisi, questa è una roba razzista? Ascolti, no, io dico una cosa. Cioè, secondo lei che cos'è il razzismo? Citare il DNA, parlare di cromosomo, parlare di... Che cos'è il razzismo? Il razzismo è affermare che un'etnia è differente da un'altra da un punto di vista genetico, no? Alla delinquenza. Questo, voglio dire, c'era Einstein, no, che diceva che di razza ne esiste una sola, quella umana. Allora, per favore, io dico una cosa, che all'interno della popolazione rom ci sono gente che delinque, all'interno di tutte le società civili c'è gente che delinque e gente che non delinque. Però scusi, io le ho detto prima. È individuale, non è che appartiene a un'etnia. Cioè, non è che la Lega Nord... Diciamo che voi avete un'alta percentuale, ecco. Perché io ho fatto un esempio anche. Se uno abita in un appartamento... Aspetti un attimo. Io ho fatto un esempio. Se uno abita in un appartamento... Sta dicendo, Zuinisi sta dicendo quanti indagati avete nelle liste. Questa però, Zuinisi, non è una stupidaggine, dai. No, ma io dico una cosa, tre ore fa è uscito un comunicato stampa di Bonanno che dice tutte le settimane andrò a visitare un campo rom. Noi l'aspettiamo Bonanno. Sì, ma guarda che io non ho paura, dopodiché una volta che sono venuto. Aspetta, aspettiamo a braccia aperte, le offriremo un caffè, perché la nostra educazione è l'accoglienza, il rispetto. Allora noi la aspetteremo e ci aiuti Bonanno a uscire da questa. Ma perché non vuoi prendere il caffè? Hai paura, Gianluca? Gianluca, hai paura di prendere un caffè in un campo rom? No, non ci tengo, perché non mi va. Non gli va. Ma però fanno... io ho fatto un esempio. Come lo fanno il caffè nei campi rom, Zuinisi? Con il caffè alla turca, con... Il caffè turco è buono, è molto buono. Oggi l'ha bevuto anche il caffè turca, che lo prendono da una turca. I giornalisti di Rete4 hanno bevuto questo caffè nel campo di però Salone. Quando... Il caffè alla turca, che lo prendono da una turca. No, il caffè alla turca è un modo di però, fare il caffè. Scusa, Zuinisi, quando uno annuncia che va, quando uno annuncia che va, quando vanno le televisioni, è chiaro che non succede niente in un campo rom. Io non vado. quando vado da solo. No, però voglio, che... no, lo sto dicendo a Zunisi. Zunisi, quando vanno le televisioni, quando uno annuncia che vuole andare in un campo rom e voi lo fate entrare, sì, è normale che non succeda niente. Non è che gli rubano il portafoglio, è no, normale. Ma io dico una cosa: i campi rom, lui dice, sembra che i campi rom l'abbiano inventati Rom. I campi rom in Italia l'ha inventati lo Stato italiano, ci ha infilato lo Stato italiano nei campi. Ma noi dobbiamo di superare ancora una campi. Volta, ancora il vittimismo. Cioè, ma che vittimismo? Questo non è vittimismo. Mi scusi tanto, Buonanno, mi scusi tanto. Una cosa. Aspetta, fai parlare Buonanno. I rom e gli ebrei, quindi, deportati nei campi di sterminio nazisti. Ma cosa c'entra adesso questa cosa? Cosa c'entra questa cosa? Ma come che c'entra? Ma cosa c'entra adesso questa cosa? Quale vittimismo? Viviamo nei campi. Ma siamo nel 2014. Non siamo nell'epoca dell'Italia, rispetti le leggi. Scusa Zunisi, ma se Buonanno, Zunisi, un attimo solo, Zunisi, se Buonanno vuole smantellare i campi rom, se vuole che ognuno abbia una casa normale come tutti i cittadini italiani, se Buonanno vuole che non si diano più soldi ai campi rom, ma che ognuno viva come viviamo tutti, procurandosi una casa attraverso un'agenzia immobiliare. Ma non siete d'accordo? Ma perché tu, Cruciani, e tu Buonanno, anzi, affitteresti una casa se sapessi che la persona che te la chiede è un rom? Ma che vuol dire? Assolutamente no. E allora di che parli? E allora di cosa parli? Salame d'un salame. Non gli do neanche un triciclo, hai capito? Salame. Io affitto una casa a una persona che lavora per il Ministero degli Interni. Si chiama Samira Via, glielo presento. Ma ho capito, ma se uno ha un lavoro, se uno ha un lavoro, la casa gliela affitti, ma se uno non ha un lavoro. Il Ministero degli Interni gliela affitta onorevole Buonanno. Ma sì, ma certo, non è che credo. Ma certo che gliela affitta. Ci possiamo incontrare, guardi, ci possiamo incontrare a Salone fra tre giorni, viene anche Salvini. Ma quello mica abita a Borgo Sesia, mica abita a Borgo Sesia, quello che gli frega dalla casa, non è che, e quello c'ha, no, la casa a Borgo Sesia. Io lo dico in maniera simbolica, lo sapete quanti italiani che si rifiutano di affittarci le case. Ma meno male, perché... ma fanno bene, perché ma non fanno bene, Buonanno, ma la responsabilità, Buonanno, ma come fanno bene? Ma gente che ha, oh, ma il colore dei soldi, non siete credibili, perché voi la mandate i figli a scuola, non siete credibili, voi difendete delle cose che sono assolutamente indegne, rovinando noi dipendiamo figli, dalla nostra e vostri nipoti, perché figli, non li mandate a scuola, giorno. Li mandate a delinquere. Ma quello non è vero, Buonanno, io i bambini che conosco vanno tutti, ascolti, io sono a Firenze in questo momento. Ma ho capito, ma sarà vero, sarà pur vero che ci sono un consistente numero di rom, di zingari che non mandano i figli a scuola, sì o no? I nostri campi vanno tutti a scuola, il 100%. Sì, bravo. 100% dei nostri bambini vanno a scuola, glielo chiede al sindaco di Scandicci. Sì, è nei campi istituti dallo Stato che i bambini non vanno a scuola, perché sono posti isolati, sono posti dove non fermano i treni, non ci sono autobus. A sentire lui vuol dire che i rom stanno meglio degli italiani, poi che ci venga a insegnare. Non stanno meglio, dobbiamo buon stare. Anno, no, in Italia sono... se ci sono più delinquenti italiani siamo 60 milioni, ma voi siete quattro gatti e su quattro gatti ce ne sono tre che rubano, lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Non è vero, Buonanno. Non è vero. Vabbè, un'altra cosa e poi chiudiamo. Allora, la questione fondamentale che Zunisi ha detto prima, che addirittura la Lega in per certi aspetti è peggio del Ku Klux Klan. Zunisi, pure lei l'ha detta grossa, però peggio del Col, perché guardi che negli Stati Uniti almeno i neri e i bianchi salivano sullo stesso autobus. Vi rendete conto? Vabbè, che Alan Fabbri ha detto che vuole autobus separati in provincia di Torino. Aspetta, chiamate Alan Fabbri, vi do il cellulare del portavoce di Alan Fabbri, che è il 320. No, non in diretta, scusi. No, ma non è fa? Un problema. Va bene, ve lo do. Zunisi, hai detto che è peggio... Alan Fabbri di chiedere scusa a tutto il a 18 milioni di esseri umani di etnia rom che abitano in questo pianeta. Vabbè. Zunisi, Alan Fabbri di chiedere scusa. Vabbè, Alan Fabbri chiederà scusa. Zunisi, tu hai detto una cosa molto grave. Hai detto che la Lega per certi aspetti è peggio del Ku Klux Klan. Buonanno, sì, come si risponde? Esatto. Buonanno. Sì, siccome lui la pensa così, ma perché non se ne torna vada da un'altra parte? Io sto dicendo. Quale parte? Gli italiani, sono a vedere dove devo andare, una famiglia rom vicino a un altro appartamento dove abito io, ma chi abita chiunque ha paura. Sali sul tram e ci sono i rom, hai paura perché sono i primi che borseggiano. Dopodiché ce ne sono di quelli onesti, ma la maggioranza sono ladri. Non ho capito. I rom sono ladri. Scusami, Buonanno. Dei rom sono ladri. Che cosa hai detto, Buonanno? Fermi, che hai detto la maggioranza? Ci sono. No, hai detto la maggioranza dei rom sono ladri. Molti rom si comportano bene, va bene, ma la maggioranza di loro sono ladri perché fanno solo quello. fanno solo quello. Guarda, oggi ragazzi, ero in metropolitana a Roma in metropolitana, e c'erano, c'ho anche il filmato che adesso voglio postare. C'erano, ero con mio figlio piccolino, quindi col passeggino, e c'erano dei rom che suonavano delle musiche zigane straordinarie, chiedendo poi ovviamente la carità, manifestando voglia di lavorare. Quelli suonano, tu non sai fare un cazzo, mentre almeno quelli suonano la fisarmonica in metropolitana e il violino. Tu non sai neanche suonare il violino, sai solo suonare sciocchezze, e suoni sciocchezze, mentre quelli suonano almeno il violino, le musiche zigane. Guarda un po'. Impara a suonare il violino, vai in metropolitana a suonare il violino. Perché io campi Roma a Borgosesia, in Valsesia, a Varallo, li prendo a calci nel sedere, perché io non ne voglio neanche uno, chiaro? Perché qui c'è gente che lavora e che vuole stare tranquilla. Molti rom vengono solo a delinquere, questa è la verità. Poi se ci sono quelli onesti, come ci sono, sono i benvenuti, ma la stragrande maggioranza no. Quindi o tu dici e chiedi scusa per tutti quei rom che rubano, che saccheggiano, che violentano, che vanno a mandare i figli a rubare, tu chiedi scusa per quelli che hanno rubato? Chiedi scusa per questi. Perché secondo te uno di Reggio Calabria deve chiedere scusa, Giunisi, perché c'è la criminalità organizzata? Giunisi, e poi chiudiamo. Giunisi, mi fate dire una cosa all'onorevole Bonanno: io sono disposto a lavorare con l'onorevole Bonanno per superare le sue paure. E ma lui non vuole lavorare con Bonanno. Non conosco, non c'è una disinformazione sul popolo rosso. È un'altra cosa. Vabbè ragazzi, devo chiudere, a presto, ciao. Hai capito? Ciao. Allora, andiamo a Reggio Emilia, Maurizio, poi il traffico, Maurizio, vai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Io volevo spezzare un lancio a favore vostro, perché per il discorso di famiglia cristiana, sì, per il fatto dei rom, ecco, ieri ad Anno 1 è stato usato lo stesso concetto, diciamo, da un intervistato, da una persona lì che avevano intervistato. C'è un servizio, stai dicendo, un servizio. Esatto, sì. Esatto. Sì, ho anche qualche straccio. Tra l'altro, in quel caso è addirittura, sì, peggio volendo, perché uno può scegliere, esatto, se mandare in onda un servizio oppure no. Mentre al contrario, quell'ascoltatore qui non si può prevedere quello che dice, naturalmente, a meno che non ti metti d'accordo prima, e noi non ci siamo messi d'accordo, no, chiaro, famiglia cristiana. Per cui noi non possiamo controllare quello che si dice, lo possiamo tagliare durante l'intervento, e Parenzo sostiene che bisogna tagliarlo prima, e su questo si può discutere. Ma il problema è un altro, che come dici tu, in alcune trasmissioni si dicono anche cose peggiori, solo che famiglia cristiana se la piglia con noi, vabbè, sti vorrei cazzi. Vedere se si usa la stessa bilancia. Ma non credo, comunque. No, ma non credo, perché è più facile, perché probabilmente poi lì è stata una frase all'interno di un servizio, dunque magari anche meno grave, meno rilevante, no, rispetto al... colpisce però. Sì, certo, cioè, in quel caso addirittura... Scusami, viene... come quel nazi, quel fascista lì che ha intervistato, mi pare, Piazza Pulita in un servizio, no, in quel quartiere... Sì, che dice: sono diventato fascista, li voglio bruciare tutti. Esatto, Che differenza c'è là? Che differenza c'è? Uno decide... No, ma un momento... Assolutamente niente. Ma addirittura in quel caso si decide di mettere quella roba lì per come testimonianza, certo, di odio, noi lo mettiamo pezzo, come testimonianza di odio. Quello è un pezzo di un racconto vero di uno intercettato che davanti a una telecamera, infatti è gravissimo, non c'è dubbio che quello lì. Allora, scusa, benissimo a riportarlo, quello lì, non è che critico questo, Scusate, no, ma infatti, se interrompo. Dimmi. Ma come il servizio di ieri, ma anche sui TG, anche TG1, meno, diciamo, non è che vanno. Comunque è passato lo stesso. Allora, guarda, ti faccio ascoltare una cosa. Se siamo rotti al cazzo, destinigri di merda, magari è diretta pure questa, adesso non mi ricordo. Comunque è uguale il concetto, se la pigliassero pure, non mi ricordo che cos'è, credo una trasmissione. Se siamo rotti al cazzo, destinigri, esatto, di merda, esatto, hanno esatto. Uno, hanno uno anche, un servizio o una diretta, non mi ricordo. Comunque, vabbè, un servizio, peggio ancora, un servizio, ecco. Siamo italiani, se siamo rotti al cazzo di tutta sta merda dentro Roma, non gliela famo più. Quando siamo circondati da negri, da tutta gente di merda. Ragazzi, su, dai, famiglia cristiana, dai. Un'altra roba, poi basta, perché non ce ne frega niente delle critiche che riceviamo, anzi, da un certo punto di vista ne siamo anche onorati, no? Dentro di noi, no? Siamo anche onorati che quando uno prende delle pietre, a me, io sono fatto così, è perché, sì, un po' dipende, sei notato, insomma, no? È perché ti notano. Beh, sì, dipende perché cosa ti notano, no, certo, in generale. Certo. E sempre in un servizio ieri di Anno 1 è uscita fuori questa frase: immigrati dentro forni crematori tutti. Ora qui c'è la scelta, secondo me fanno benissimo a mandare in onda queste cose, sia chiaro, perché sono un esempio di quello che cova, no? Di quello che c'è. Però lo scelgono in un servizio, allora se la prendessero anche con loro, dicendo non possono mandare in onda razzismo, istigazione, eccetera, eccetera. Immigrati, dentro ai forni come gli ebrei. Dentro ai forni? Sì, come gli ebrei. Immigrati tutti. Capisci, Parenzo? Cioè qui è una scelta precisa, dubbio. Una scelta precisa di mettere in un servizio una frase di questo tipo. Allora, fermi tutti, il nostro Antonio Amorosi, nostro, cioè è un freelance che ha realizzato un servizio per noi, signor Antonio Amorosi, sulla regione Amorosi. Sulla regione Emilia-Romagna. Mi manda sempre SMS ogni giorno. Bravissimo. Mi segnala notizie, cose. Fa grandi scoop, eccetera. Bravo. L'abbiamo mandato dai candidati della la regione Emilia-Romagna, si vota domenica per la presidenza, per un test di cultura generale, lo stesso che abbiamo fatto con i consiglieri comunali a Milano. Come è andata? No? Beh, devo dire che non è andata male, cioè non sono scarsissimi, a parte alcuni, non sono scarsissimi. Beh, le domande erano abbastanza semplici, però non troppo, io per esempio sicuramente non sapevo rispondere. Beh, cioè, non sei né emiliano né romagnolo. No, ma alcune cose avrei sbagliato, anche le cose più semplici, perché però se uno si candida a governare la regione Emilia-Romagna, certe cose le ha da sapere, come si dice, no? Le ha da sapere. E allora iniziamo col signor Bonaccini. Iniziamo col signor Bonaccini, che è sostanzialmente il favorito, signor Bonaccini, il quale sbaglia due cose. Che dice che Modena è la seconda città. In realtà la seconda città, tu lo sai qual è la seconda città dopo Bologna più grande? Dopo forse Parma. Parma, esattamente. Per però ho detto da caso, eh. No, Parma per 15.000 ventine. Secondo Bonaccini è in realtà Modena. Poi sbaglia un'altra cosa ancora. Sentite Bonaccini. La seconda città più grande dopo Bologna è Modena, e con circa 190.000 abitanti, subito dopo Parma, che ha pochissime unità in meno. Dove è nato Ludovico Ariosto? Ludovico Ariosto è nato a Ferrara. Allora, tu sai dove è nato Ludovico Ariosto? No, questo non lo so. Reggio Emilia. Reggio Emilia, come Landini. Reggio Emilia, Ludovico Ariosto come Landini. Non sapevo un cazzo. Bonaccini sbaglia su Modena, però devo dire avrei che detto ma diversi sbagliano, Ferrara, sai che diversi sbagliano Modena in realtà, cioè per molti no, candidati io lo sapevo perché, Per molti candidati Modena è la seconda città dopo Bologna per grandezza, per numero di abitanti. In realtà le statistiche, le ultime, dicono che è avanti Parma per poche migliaia. Diciamo, quella che sbaglia di più, anche se in maniera, come dire, simpatica, è la candidata grillina Gibertoni. Sentitela. Giulia Gibertoni. Quante sono le regioni che confinano con l'Emilia Romagna? Allora, sono il Veneto, la Lombardia, le Marche, la Toscana, San Marino, che non è una regione ma confina, cioè insomma sta dentro l'Emilia Romagna. Che cosa mi sto dimenticando? La Liguria? Cosa mi sto dimenticando? Direi che chiudo qui. Ok, quante sono quindi? 5. No, ho superato l'esame. Quanti sono gli abitanti dell'Emilia Romagna? Gli abitanti dell'Emilia Romagna sono... Oh dai, tagliala questa, non ci posso credere, gli abitanti dell'Emilia Romagna. In quale città passa la via Emilia? Emilia passa attraverso tutti i nostri capoluoghi emiliano-romagnoli. Quando fu costruita la via Emilia? No, vabbè, dai, basta. No, ma scusa. Gli abitanti effettivamente lo indovinano tutti, gli abitanti, il numero di abitanti, eh. Beh, in genere chi si candida lì si candida, sì. Basta Wikipedia, domande da Wikipedia, cioè proprio il no, Bignani. No, quello in genere chi conosce la regione dove signor sta. Signor Gibertoni, chi mandiamo in onda? Facciamo una par condicio, mandiamo in onda tutti, dai, Fabri della Lega Nord, che è abbastanza ferrato, devo dire la verità. Modena seconda città e poi ci sono 5 parchi nazionali, in realtà i parchi nazionali sono 2. Fabri. La seconda città più grande dopo Bologna. La seconda città più grande dopo Bologna, Modena. Quanti parchi nazionali all'Emilia Romagna? 5. Dove è nato Ludovico Ariosto? Ferrara. Mussolini, Pasolini e Verdi, chi di questi non è nato in Emilia Romagna? Pasolini. No, la Pasolini non è di Bologna, scusa. Pasolini di Bologna, sì, però era una domanda trabocchetto di Amorosi, che ha detto ai candidati. Perché Friuli, perché in realtà tutti attribuiscono a Pasolini. In realtà è nato a Bologna. I natali friulani. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare e che avrei corteggiato. Prima voglio sentire Maurizio dalla provincia di Monza. Maurizio, vai, Maurizio. Maurizio? Sì. Vai, sente? Dimmi, dimmi. Buonasera. Allora, io volevo portare un esempio mio personale. Sì. Io ho un appartamento a Padova. Sì. Mi sono fidato di darlo ammobiliato in affitto. Sì. A un prezzo anche basso a una famiglia rom. Sì. Questo per 3 anni hanno cominciato a pagare i primi mesi, poi non hanno più pagato. Sì, ma lo sa quanti italiani fanno lo stesso scherzetto, però non è che solamente i rom lo fanno, eh. Cioè, però, diciamo la verità, io sono contro i campi rom, sono contro l'illegalità dei campi rom e per me sono una barbarie, quello che vogliamo, però non è che gente che non paga l'affitto ce n'è a centinaia tra gli italiani, dai su. Però no, non distruggono l'appartamento. Vabbè, questi è quello, amico mio, quello, se uno distrugge l'appartamento, questi sono dei delinquenti, cosa vuole che le dica? Mandare la polizia. E che hanno fatto poi? Praticamente mi hanno portato via tutti i mobili, io l'avevo mobiliato, mi hanno portato via i mobili, adesso sono in una casa popolare grazie all'amico Ivo Rossi che gli ha dato la casa popolare, sono a nostre spese e continuano a delinquere, continuano a mandare i bambini a scuola, continuano a passare le giornate al parchetto a fregare i soldi e i portafogli. Sì. E questo qua è. Va bene, va bene, Maurizio, ho capito. Fosse per lei, che cosa farebbe con i rom, lei, scusi? Io cosa farei? Io cercherei di cercare il rispetto. Se non c'è rispetto, prendono e se ne tornano a casa loro. Ma spesso sono italiani, questo è il punto, a casa loro. No. Il problema fondamentale è che io non trovo che sia possibile avere un modo di vita diverso da quello di tutti quanti noi. Cioè, questo certo. È il punto fondamentale. Cioè, uno si deve andare a cercare la casa con l'agenzia immobiliare, non te la deve dare il comune, c'è cioè la casa. Se no, altrimenti fa le graduatorie e tutto quanto. Cioè, perché deve essere fatta la casa per i rom? E questa è la follia. Non c'è casa per sì, i le rom, case, i parchi cioè, attrezzati con le case per i rom. Quelle sono soluzioni evidentemente ma sono soluzioni sbagliate, no, perché sono privilegiati in questo caso rispetto agli altri. Sono privilegiati. Vivere in quell'immondizia non è da privilegiati. Amico mio, ma non è che gli ha ordinato il dottore, però. Cioè, ho capito, ma uno vive come tutti gli altri. Cioè, la gente normale vive pagando l'affitto, cercando la casa dell'agenzia immobiliare. Vive in macchina, Ma ho capito, ma ci sono persone che vivono in macchina, tu gli dici beh vai a prenderti una casa, amico mio, vai a lavorare, quello lì, certo, ma quello lì lavora. Anche ieri mi pare a Piazza Pulita, non mi ricordo, sì forse la Piazza Pulita, hanno raccontato quello di un italiano che vive da 4 mesi in macchina e dice vabbè, vai a lavorare, quello la lavora cosa. Sì, quello peraltro sì, lavora, vabbè, guadagna pochissimo, quello, ma lavora e vive in macchina, poverino. E che deve fare? Vai a lavorare. Beh, insomma, ci va anche quello, però lo stesso non può pagarsi la casa. Nuova gaffe di Lotito oppure semplicemente un errore, come dire, di dizione ieri sera? Lotito. La storia del presidente Adavecchio invece è una storia completamente diversa, perché è una persona che ha costruito 2 ospedali nel Togo. Che ha, nulla. Che ha adottato dei cosi e che non ha assolutamente. Ma noi valutiamo e non ha assolutamente. Ha adottato, scusi, cosa? Prego? Ha adottato 3 bambini. Ho capito dei cosi. No. Vabbè, ragazzi, però veramente in questo caso ha adottato dei cosi, voleva dire sì, ha adottato dei bambini, non è che voleva dire dei bambini sono come dei cosi, dai, su. Cioè, sì, non sì, esageriamo, sì, dai, vero, ha adottato vero. Dei cosi, voleva dire dei bambini. Vero, tutto si può dire tranne che Lotito sia razzista, dai, su, si può vero. Dire tutto il linguaggio, dai. Allora, abbiamo con noi, caro Parenzo, beh, gradito ospite, soprattutto grande ritorno, grandissimo ritorno alla Zanzara, grande ritorno alla Zanzara dopo tanti anni, Raul Casadei, caro Raul. Come stai? Come stai? Come vai? Devo dire subito una cosa, scusa, me la devo dire. Dimmi. Devo ringraziare, spesso nelle tue trasmissioni salta fuori un brano che si chiama Non mi molesti il moschito, che è un successo discografico di mio figlio Mirko Casadei. Quindi, ma veramente? Non mi molesti il moschito? Ma anche per farti capire, te lo voglio dire, che non è che facciamo solo il liscio, Noi abbiamo della grinta in tutti i generi. Abbiamo una famiglia di geni quelli, Bravi ragazzi, Una famiglia di geni Casadei. Non mi molesti il moschito? Com'è che fa, Raul? Non mi molesti moschito. Quella lì lo inseguiva come un moschito. Cioè, quello lì seguiva come una mosca. Gli dava fastidio. Non quanti anni hai, Raul? Quanti anni io hai? Io 77. Ma come e Berlusconi? Sono diventato bisnonno. Come Berlusconi? Bravo. Come Berlusconi? Cioè sei praticamente coetaneo del Berlusca, eh? Non è mica male. No, male. Vabbè, ma sì, però cavolo, ma mi sembri più in forma te o più in forma il Berlusca? Berlusca c'è un'equipe di medici intorno pazzesca. Te l'altra passa. In forma anche lui, diciamo la verità. Io sono in super forma, sai. Vado a caccia, vado a pesca, coltivo l'orto, quindi sono. Ma che te frega? Me stai in Romagna, tranquillo. T'ho visto abbracciato a Salvini, t'ho visto e sentito abbracciato a Salvini. Facciamo risentire un attimo agli ascoltatori la splendida performance con Salvini. Beh, con Liscio. Splendida. Beh, ma assolutamente meravigliosa. Cioè Casadei, Salvini, la nuova coppia della Romagna. Mi dispiace un po' questa roba. Ma perché ti dispiace? Ma Casadei fa il cazzo che vuole. Perché io lo vedevo alle feste dell'Unità quando veniva a suonare. Ma non ci va più, non lo vogliono più, non lo invitano più. Ma io lo ascoltavo sempre, venuto anche a Padova, andiamo a ballare lì. Fammelo sentire con Salvini, aspetta, fammi sentire con Salvini. Salvini sei la stella. Salvini, tu sei l'amore. Arriva la Romagna. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Romagna mia, Romagna mia. Com'è canta Salvini, Raul? Ti dirò che oltre che essere un ragazzo simpatico è anche intonato. È intonato, addirittura intonato. Adesso non facciamo. È intonato, ha della grinta. Viene dall'Emilia Romagna, vive qui, insomma, in qualche modo. No, viene dall'Emilia Romagna, è Milano, amico mio. Ormai si può sostituire con l'Emilia Romagna, va bene. Vabbè. Io sono orgoglioso che sia venuto a trovarmi. Qualcuno che mi sia venuto a trovare, che ha riconosciuto che io un pochino sono un testimone dell'Emilia Romagna, di tutta la storia. Io sono sul mercato, si fa per dire, dagli anni 60, capisci? È sempre qua e nessuno mi sposta. Capito? Scusami un attimo, ma tu lo voterai alla fine questo candidato della Lega? Questo non lo so. È il voto, ma come non lo sai? Adesso svelaci tutto alle 20:44. Guarda, io sono felice di incontrare questi personaggi. Vorrei incontrare anche Bonaccini, anche Renzi, perché io ho delle proposte per rilanciare il turismo in Romagna. Sì. E voglio che i politici ascoltino. Questo è il mio scopo. Ma Renzi ti piace? Politica. Renzi ti piace come personaggio o no? Ma certo che mi piace, simpatico. È un sogno moderno, nuovo, fresco che combatte. Cioè, io invito o parlo o accetto volentieri l'incontro con questa gente. Sì, però con Salvini c'è un c'è un feeling o no? Ma perché noi siamo un po' rustanti, capisci? Io sono rustante. Ma chi voti domenica, Raul? Dimmelo. Ma questo non si sa, poi è segreto, non lo sai. Vabbè, ma è segreto. Tu nel passato, nel passato chi hai votato l'ultima volta? L'Europea? Io ho votato. Prima votavo Berlinguer e cantavo tutte le sere bandiera rossa col pugno chiuso. Sì. Poi mi sono innamorato di Berlusconi, che l'ho visto. Mi ha creato un po' il sogno italiano. Poi? Il sogno si è avverato o non si è avverato. E adesso guardo con i protagonisti del momento. Vabbè. Guardo Renzi, guardo Salvini. Spero che venga qualcosa di buono. Vabbè, ma quello d'accordo. Io ho bisogno di spingere per il turismo. Ma è vero che la sinistra non ti fa più fare niente? Ma c'è stato un momento, perché ne abbiamo parlato ancora, in passato. Però in passato mi ha fatto fare delle cose importanti. Balamondo Riccioni in agosto per... Ma è importante che si cambi, adesso te lo faccio dire in un altro modo, è importante che si cambi bastone del comando alla Regione Emilia Romagna oppure no, Raul? Ma certo, ci vuole l'alternativa. L'innovazione, in fondo, Errani ha fatto il suo tempo. Errani non c'è più adesso. Ma voglio dire, è giusto che non governi più il Partito Democratico o no? Ma non lo so, vediamo le proposte che fanno. Non ci interessano le sigle, i nomi politici. Vabbè, ho capito. Ci interessano le idee. Noi siamo come la faresti una canzone per la Lega? Cantaci questo bello. Una canzone. Io l'ho già fatta. Qual è? Si chiama Valpadana. Dimmi un po'. Vai un po'. Qui dice: tradizioni della mia gente, Valpadana, sei nel mio cuore. Valpadana che parla del... Ma lo sai che è meglio Valpadana di quella della Lega ufficiale, Parenzo? Non è male. Com'è che fa dopo, Raul? Dopo c'è un testo bellissimo che dimmi dice un po'. Che siamo positivi, noi dice, c'è sempre una fisarmonica che suona, anche se c'è nebbia in Valpadana. C'è sempre una coppia ballina. Ma come fa cantata? Se c'è una fisarmonica che suona, anche se c'è nebbia in Valpadana. Beh, ormai è diventato leghista, Parenzo. Ballerina, senti questo. Lei fra le sue braccia s'abbandona, tra quale note d'un tango argentino, ricordo un sogno lontano, sento il sapore del vino, il profumo del grano. Tradizioni della mia gente. È bella, io sono un posto nato quando ciao, canto. Ciao Raul, però... ti abbraccio. Ciao, presto. Ti saluto, ti faccio tanti complimenti ciao. Per le tue trasmissioni. Tieni duro, ciao, tieni, ciao. Ti ascoltano tutti, sempre. Ciao, grazie, sì. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Casadei. Allora, ci mancava un candidato in Emilia-Romagna, eh? Ci mancava un candidato, mi sembra. Abbiamo fatto delle domande di test, di cultura generale, quelle che non si possono non sapere. Ci mancava quello della cosa, quello della, del nuovo centrodestra, se non sbaglio. Com'è che si chiama quello del nuovo centrodestra? Non so, Rondoni. Sentiamo che ha sbagliato Rondoni, eh? Con quante regioni confina l'Emilia-Romagna? Allora, 5 regioni. Quali sono? Allora, Toscana, Marche, Veneto, Lombardia, Piemonte. Quanti sono gli abitanti dell'Emilia Romagna? Qui il numero non me lo ricordo esattamente. La seconda città più grande dopo Bologna? Reggio Emilia. Qua? Numero di, come provincia, non come comune. Come città, come città. Ah, come città. La rifaccio. La seconda città più grande dopo Bologna? Allora, come provincia so che è Reggio Emilia, come comune credo che sia Modena. Mussolini, Pasolini e Verdi, chi di questi non è nato in Emilia Romagna? Allora, Mussolini è Predappio, lo so perché sono forlivesi. L'altro è Pasolini e Verdi. Beh, Verdi è nelle nostre zone, quindi è Pasolini che è friulano. Dobbiamo fare una correzione rispetto all'altro giorno, eh? Perché abbiamo detto che la frase, la gaffe fatta da, nel Consiglio Comunale di Milano era di Igor Riezzi. Ah, in sì, realtà, ma scritto anche a me, sì. In sì, realtà sì. Era del, di un esponente del Partito Democratico, esponente del Partito Democratico che si chiama Stanzani. Cioè la frase, le cinque giornate di Milano furono un combattimento, una guerra, una lotta tra milanesi e Barbarossa, non era di Riezzi ma di Stanzani, Partito Democratico. Chiediamo scusa. Sentiamo Stanzani, Riezzi. Chiediamo scusa a Riezzi ovviamente. Ultima cosa, le cinque giornate di Milano, quando si svolsero e chi combatté contro chi? Allora, si svolsero contro il Barbarossa. Sergio da Ferrara. Buonasera, mi sente? Sì, Sergio, vai, però veloce, vai. Bene. Io volevo, sì, veloce, io volevo solamente interloquire con quel signore rappresentante degli zingari, perché non riesco a capire se gli zingari hanno grosse macchine e grossi gioielli di grande valore, che tipo di lavoro e attività fanno? C'è una statistica che stabilisca che tipo di lavoro fanno gli zingari? Perché noi sappiamo che senza lavorare soldi non ci sono, quindi io sono esterrefatto da questo signore che dice cose che non stanno nel cielo in terra, per il semplice motivo che se uno lavora ha i soldi, se uno non lavora i soldi non ce li può avere. Beh sì, ovviamente quelli che hanno le macchine, quelli che hanno le macchine, succede anche a molti italiani di avere macchine che non si possono permettere e poi vengono scoperti dal fisco, se sono comprati le Ferrari guadagniamo in realtà 200 lire, eh. Non è che, però lei ha ragione, chi ha catene d'oro, a parte la catena d'oro non è che bisogna vedere che oro è, catene d'oro e macchine grosse che è un po' diciamo la, no, quello che si attribuisce ai Rom, ma per me ci dovrebbero fare controlli ogni 3 secondi nei campi Rom. Scusi, lei come ha comprato la macchina, me lo può dire per favore? Con quali soldi? Mi fa vedere il bonifico? Mi fa vedere i soldi che sono stati dati, come, quando e perché? Ma quello è chiaro, ma quello è evidente. Ma in Italia lo Stato non esiste, non c'è, non solo su queste cose, anche su altro, lo Stato non esiste, non esiste, non c'è, su questo come su altre cose, non c'è il controllo, non c'è nulla, non c'è niente. Ci dobbiamo sentire lunedì 18:30, ciao. Lei è un bestione con quel Davide dell'Ostrega, ma accidenti, l'incazzatissimo Cruciani, ma porca miseria. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. No, non siete seri per niente. Radio 24. La passione si sente.